asilo. Chiedo asilo. Vai Manolenta. Gaetano Manolenta K. Vai al ritornello. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Mm. Ah ah ah ah ah ah ah ah. Così, versione originale, c'è la chitarra che fa La droga trova il suo regno tra le teste di legno. Così diceva il padre a un mio amico tanti anni fa. E il tuo amico, sentendo questo poema, ha smesso di drogarsi. Figurati, figurati. Comunque la stessa conclusione la tratta il Dipartimento Politica Antidroga, DPA, dopo uno studio sui minorenni e le droghe durato un anno. Cioè, il DPA scritto nel rapporto finale: la droga trova il suo regno tra le teste di legno. Più o meno sì, più o meno sì. E allora perché non mettono il padre del tuo amico a capo del DPA? Perché... è morto. Vabbè, comunque lo studio del DPA dice che il 22% dei minorenni ha provato almeno una volta la cannabis e il 19% l'ha usata negli ultimi 12 mesi. Non è che sia poi... E quindi è partito il progetto Elementare ma non troppo, che penso che sia una citazione di Watson e di Conan Doyle, non lo so. Comunque, che prevede un target di 25 scuole elementari, col coinvolgimento di circa 7.500 bambini, 15.000 genitori, perché 7.500 per 2 fa 15.000, giusto. E 1.000 insegnanti, tutti impegnati a informare i bambini sui rischi delle droghe e dell'alcol, hai capito? Ha fatto questo. Però io mi ricordo che quando parlavano a scuola, quando andavo io di queste cose, mi veniva voglia di provarle le droghe, no? Cioè, ti veniva voglia, cioè ti facevano gli Un po' come quando studi legge, no? Studi legge, è quello che ti viene la voglia di infrangerla. Ho capito. E quindi, quindi cosa succedeva? Cioè, succedeva che le campagne contro la droga si trasformavano in campagne per la droga. Ma come? No? Ma sì, tutta la classe voleva provare l'LSD dopo il documentario sull'LSD. Quindi ho capito. Stessa cosa. Cosa Drago con la frutta obbligatoria? Parli bene della frutta? Noi non la mangiamo. Ho capito. Parli male della droga? Noi ci droghiamo. Capito. Vabbè, questo è lo schema dei rapporti fra autorità e bambini. Quindi, ma cosa non fare questo, io lo faccio. E allora cosa dovrebbero fare gli insegnanti? Fai questo, io non lo faccio. Dovrebbero obbligare i bambini a fumare le canne, così poi da adulti le odieranno. E certo, e poi proiettare documentari contro la frutta, così tutti vorranno mangiarla, no? Capa, per cortesia. Tito, cosa vuoi? Tanto tu la frutta. Madonna, che minaccioso, cos'ha? Non mi dire niente, guarda. È sempre più cattivo, è sempre più geure. Cioè, lui non vuole più restare da solo a casa. Voglio dire, la sindrome dell'abbandono la viviamo tutti, anche noi umani. Ma tu lo porti sempre in giro. Ultimamente lo devo lasciare un po' a casa. Allora cosa succede? Che si piazza davanti alla porta. Io dico: Tito, dopo vengo. Stai calmo, Tito. Tito, dopo vengo. E lui già capisce che in realtà non viene. Cioè, vieni dopo. Sì, ma molto dopo. Perché non è come si dice al sud, che dici sto tornando. Se gli dici sto tornando mentre esci, come fanno tipo in Sicilia, è una cosa, in realtà si capisce che ti stanno prendendo in giro. Sì, e lui lo capisce anche con dopo vengo. Dopo vengo. E adesso ha preso a morsicarmi saltandomi a Tito. Ma come? Ma Tito, ma stai calmo. Mi salta addosso. L'ultimo giorno, cioè ieri mattina, per uscire di casa l'ho dovuto tenere lontano col bastone della vicina. Sì, perché la vicina lascia i bastoni nel portombrelli fuori nel pianerottolo. Ho preso quello e con quello ho fatto il pastore e l'ho rimandato dentro. Ho capito. Se non ci fosse stato il bastone, a volte le bastonate servono. Aia, ma no, vabbè, aia. Vabbè, servono, ma servono, Drago. E ora, bambini, ricreazione. Ciao ragazzi, ciao. Sentite, volevo chiedervi, ragazzi, questa cosa, insomma, prendeste raga, no? Ma no, sei un raga. Bambino, dovresti darci del lei, anzi dacci del lei. Tu devi dire Drago, lei con mettiamo il distacco lei. Sì, esatto, scusate così. Sì. Scusino, perché diventa, vabbè, se lei però, il plurale diventa lasciamo loro. Perdere, ok, allora vabbè. Cosa vuoi? Volevo chiedervi se per caso voi conoscevate, avete per caso un amico, un medico, no? Un medico compiacente, nel senso... Un medico compiacente. Cosa vuoi, farti fare la giustificazione che vuoi stare a casa, la febbre finta, quello no, roba lì? Ma io sto benissimo. Cosa ti serve poi te, la tua età, basta che dici, mamma, mal di pancia, stai a casa. Appunto, che ma no, ma no, ma io sto benissimo. Allora qui si tratterebbe di una faccenda un po' più delicata, no? Sì. Si tratta di Toming, no? Capito? Di? Ho detto che si tratta di Toming. Di doping. Di doping! Ah, allora, capito? Allora, adesso no. Vabbè, ma sei pazzo. Allora, ho detto che è una cosa riservata. Cosa dici doping? Non dovresti parlare di queste cose qui. Un bambino della tua età cosa ne sa del doping? Ha ragione Drago. Anche stavolta non posso stare dalla tua parte. Ma come no? Ma dai, doping no. Poi non ho mica detto droga, ho detto doping. No, e poi droga... si tratterebbe, attenzione, di doping legale. Cioè, doping legale. Doping legale. Ma non esiste il doping come legale. No? Cosa dici? Come no? Esiste come? Negli Stati Uniti esiste. Poi l'ho visto su internet. Dipende dai siti che guardi, però scusa. Però l'ho visto su internet. Ma perché i tuoi non hanno messo il filtro protezione minori? Filtro, ma i miei, sì, ma io il crack, no? Ma il crack, ma cosa te ne fai tu del doping poi, scusa? Mica devi fare qualche gara sportiva, scusa. Allora devo partire all'inizio. In America c'è il boom degli psicofarmaci, no? Per i bambini affetti da ADHD, no? Cioè, non so se mi spiego, mi sono spiegato, no? ADHD, non sì, so. Sì, disturbo da deficit di attenzione e iperattività. La solita roba di Kurt Cobain, a cui hanno dato del Ritalin. Iperattivi. Sì. No, Kurt Cobain, qui sono le americane. Comunque, se ci fosse per caso un medico, no, che potesse diagnosticare la ADHD, no? Sì. L'HIV. Potrei avere anch'io del doping legale, no? Perché in America, che lì sono avanti di 2000 anni, con la scusa di sto disturbo, usano i psicofarmaci per i bambini che quelli un po' che rendono poco a scuola, no? Signora, che poi sono quasi sempre poveri, sono quelli che vivono nei ghetti, che sono sempre allenati a casa. Ma cosa ne sai tu? Allora, di non studiano, cose? Sono distratti. Ho letto su internet. Il padre di tre figli, va bene. Quindi, a quei dottori ci sono detti, un dottore dell'Arkansas, di che lì, Arkansas. Ha detto, questi qui migliorare le condizioni di questi bambini. Ci costa troppo, cioè possiamo mica ricostruire le case. Quindi gli diamo psicofarmaci, no? Così li mettiamo a posto. Che costa meno? Gli americani, forti o no? Sì, ma ho capito, ma tu cosa c'entri tu col doping degli americani? No, ma ragazzi, siete adulti, sì, ma volete il leo, non capite niente. Non riusciamo a fare i collegamenti. Allora ve lo faccio subito, a me interessa l'effetto del doping. Oh, madonna. Sì, perché lì c'è scritto che i bambini che lo prendono si sentono subito positivi, felici, e socializzano di più, ma, no? Pieni di energia. Ma saranno malati. E voglio sentirmi anch'io così. Ho capito. Quindi, e poi se si va bene a scuola, i genitori sono contenti, non c'è nessuna controindicazione, cioè doping legale, tutti contenti. Sì, e quindi ci vorrebbe un dottore che dica che io sono disturbato, no? Beh, disturbato. Compiacente. Più che altro sei uno che disturba, poi che tu sia disturbato, no? Però non comunque lo so. Non c'è bisogno di un dottore, secondo me, te lo dico. Com'è? Io, sei disturbato. Allora, non cominciate, non mi prendete in giro. Disturbato nel senso che ho ufficialmente un timbro, il disturbo da deficit d'attenzione e iperattività. Perché se c'è il timbro, il dottore è a posto, perché io dall'esterno posso anche sembrare così, no? Perché io non sto mai attento perché mi faccio gli affari miei, no? Sì. Iperattività non c'è problema, posso anche fingere di essere agitato, quindi quello mi riesce bene. Vabbè, ma i tuoi genitori lo sanno che ti metti in testa queste idee strampalate. E allora, del non gli ho spiegato così bene come voi, ma io l'ho accennato, no? Sì. Io dico, se volete che vada bene all'asilo, o mi fate fare delle ripetizioni a 30 euro all'ora, o mi fate passare per affetto da ADHD e tutto si risolve con i psicofarmaci, no? Vabbè, mi sembra una proposta. Gratis. Una proposta sì, ti avranno detto che non è il modo di fare. Esatto. Allora, detto, per carità, piuttosto... inizialmente sì, perché alla parola psicofarmaci mia madre è sbiancata, no? Ci credo. Allora ha detto ripetizioni, 30 euro all'ora. Però è durato poco, perché la parolina magica, gratis. E si sono subito rilassati i muscoli facciali. Alla mamma. Mio padre mi ha guardato, mi ha dato un buffetto in testa, no? E mi ha detto che era fiero di me. Sono fiero di te, bambino Alberto. Perché stai diventando un ometto, intraprendente, indipendente. Quindi, praticamente, ho il benestare dei genitori. Adesso mi manca solo il medico compiacente, no? Ce l'avrete un medico, siete adulti? Allora. Sì, ma non si può, bambino Alberto. Allora, voi intanto che cercate, perché ci ho parlato col bidello prima, che lì lo mi fido ciecamente, no? Cioè, ma non devi prendere... dato una pastiglietta a lui, ma non perché devi... le usa lui. Ma non di lui mi fido, Ma senti, ma non ti hanno detto che non si prendono le pastiglie dagli estranei? Ma l'ha detto il bidello, ho detto, la prendi, ma non è che una roba per minori, ma no, bidello, vai. Non sa neanche parlare, quindi manca il palato. Quindi, ora che andate in giro, tornate e io sarò felice, capito? Vabbè. È pieno di energia, pronto per affrontare l'asilo, no? Cioè, capito? Magari gli ha detto che vuol dire? Ti do il Viagra. Allora sono andati via. Intanto c'è la pastiglietta qui. Non è che mi sento. Adesso verrà l'effetto che quella blu mi ha dato, no? Ha detto prendi la blu io mi sento quella prima. Adesso verrà l'effetto che madonna, devo dire mia madre di allargare i miei pantaloni, perché mancano 58 giorni alla fine del mondo.